le 13 in punto. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. mila posti di lavoro a rischio, 180.000 già in cassa integrazione, sono i dati della CISL sulla crisi dell'industria. Si decolla, ma solo fra un mese. La nuova Alitalia targata CAI partirà dopo Natale. Via il premier, sciolti i partiti politici, Thailandia nel caos mentre stanno rientrando gli italiani. La politica estera di Obama e la folla di clintoniani al governo, fra poco l'intervista all'ambasciatore Sergio Romano. L'India e la paura dell'estremismo, in XL sentiremo il direttore del centro studi islamici di Mumbai. Erano in 9 ed erano legati alla mafia, arrestati i rapinatori della Damiani Gioielli a Milano. Mentre la Milano ingioiellata si prepara alla prima della Scala, revocato lo sciopero, attesa per domenica sera. Il più forte del mondo è un portoghese, pallone d'oro a Cristiano Ronaldo, dietro di lui Messi e Fernando Torres. Una buona giornata da Simone Spezia e da Alessandra Tedesco. E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large. Nei prossimi 2 anni sono a rischio 900.000 posti di lavoro nell'industria manifatturiera e nelle costruzioni. La stima è stata fatta dalla CISL nel rapporto sull'industria 2008 che è stato diffuso questa mattina. Andrea Viali, allora, che cosa si dice in questo rapporto? Andrea, ci senti? Andrea dovrebbe essere collegato con noi da Roma per parlarci appunto del rapporto della CISL, evidentemente non siamo in grado. Andrea Viali, ci senti? No, non ci sente. Abbiamo qualche problema. Bene, visto che stiamo parlando di aziende in crisi, passiamo ad un'altra azienda in crisi e poi cercheremo di ricollegarci di nuovo con Andrea Aviali. Parliamo dell'azienda in crisi che in qualche modo per eccellenza di questi ultimi anni, che è Alitalia. Eh sì, perché oggi si è saputo che la nuova Alitalia partirà solo dopo Natale. Così Francesca Malaguti? Sì, è così. L'inizio della gestione CAI della nostra compagnia di bandiera è rimandato dopo le vacanze di Natale, mentre era previsto per il 1° dicembre. Ad annunciarlo è stato il ministro per lo sviluppo economico Claudio Scajola, che però specifica: Alitalia da ieri è già a carico di CAI. Sentiamolo. La data è il 1° dicembre, e cioè ieri, con cui partono tutti gli effetti economici della operazione. C'è poi il cambio di casacca. Credo giustamente si sia considerato il periodo delle vacanze natalizie non quello ideale per fare il cambio di guida, e quindi il cambio di guida, il passaggio della cloche, avverrà dopo le vacanze natalizie. E anche il commissario Fantozzi ha chiarito che da ieri paga CAI, mentre la chiusura del contratto e il conseguente passaggio formale di consegna a Compagnia Aerea Italiana è fissato per il 12 dicembre, quindi solo il decollo operativo è quello che slitta dopo le vacanze. Anche il ministro del lavoro Sacconi minimizza sul rinvio, non è significativo, dice, perché il processo è ormai irreversibile. È tutto. Grazie allora alla nostra Francesca Malaguti. Siamo adesso in grado di collegarci con Andrea Viali, che ci parlerà del rapporto CISL, il rapporto sull'industria. Andrea? Sì, eccoci. Sono dati preoccupanti quelli diffusi oggi dalla CISL nel rapporto sull'industria. Secondo il sindacato di Bonanni, nei primi 10 mesi del 2008 oltre 180.000 lavoratori sono stati coinvolti in crisi o ristrutturazioni aziendali, passando cioè attraverso mobilità e cassa integrazione, ma non solo, perché per la CISL nei prossimi 2 anni la previsione è che a rischio saranno oltre 900.000 posti di lavoro nell'industria manufatturiera e nel settore delle costruzioni. Per fronteggiare questo rischio la CISL ritiene necessario un intervento a livello europeo, da parte delle autorità europee, che dovrebbero rendere più flessibile la possibilità di rientrare nei parametri di Maastricht per quanto riguarda il rapporto tra deficit e PIL. Al governo invece, oltre alle misure anticrisi già varate, la richiesta invece è quella di interventi per favorire l'accesso al credito delle piccole e delle medie imprese, ma anche quella di avviare una nuova politica industriale e dell'energia. Il giudizio sul pacchetto anticrisi, a cui ha fatto riferimento anche la CISL, divide tutti i sindacati. Il piano non dispiace alla CISL appunto, ma anche alla UIL, mentre la CGIL ieri lo ha bocciato e ha confermato lo sciopero generale del 12 dicembre, sciopero al quale non aderiscono le altre due confederazioni, sciopero che, secondo quanto ha previsto oggi il ministro del welfare Sacconi, sarà un insuccesso. A voi la linea. Grazie Andrea per questi aggiornamenti. Parlavamo poco fa di Alitalia, proprio con un volo speciale della ex compagnia di bandiera che sono ripartiti i primi italiani da Bangkok. Ci aggiorna in diretta dalla capitale thailandese Luca Vinciguerra. Com'è la situazione per gli italiani innanzitutto, Luca? Ma la situazione, dunque, sono iniziati i rientri, sono partiti 230 connazionali con un volo dell'Alitalia, più 150 partiranno nelle prossime ore con un volo della TAI e poi altri turisti italiani bloccati qua in Thailandia dovrebbero entrare nelle prossime ore via Francoforte, Parigi con altre aviolinee. Ecco, la situazione direi che è normale, cioè c'è gente bloccata, il problema è che per quelli che se ne vanno ce ne sono altri che arrivano, ovviamente c'era gente che aveva prenotato e pagato da tempo il soggiorno in Thailandia e sta partendo lo stesso. Ecco Luca, qual è la situazione? Abbiamo avuto versioni discordanti, l'aeroporto deve essere chiuso, l'aeroporto invece sarà aperto. Qual è la situazione adesso politica proprio in questo momento in Thailandia? No, aspetta, sull'aeroporto posso darti una notizia che è proprio fresca, le autorità aeroportuali hanno annunciato che verrà riaperto ai voli civili il 15 di dicembre, quindi per altre quasi due settimane l'aeroporto resta chiuso perché riaprirlo non è facile. La situazione politica è molto molto seria, nel senso che questo verdetto di questa mattina della magistratura di Bangkok, che ha ordinato lo scioglimento dei due principali partiti e ha interdetto dall'attività politica i suoi leader, compresi anche il primo ministro Somchai, da un lato ha rotto lo stallo in cui ci si trovava da tempo, la prova è che appunto gli occupanti dell'aeroporto hanno sciolto l'assedio. Dall'altro però ovviamente apre una situazione di estrema incertezza e di caos, per questo ci troviamo con un governo diciamo delegittimato, che peraltro non si trova neanche a Bangkok ma che si ritrova a Chiang Mai nel nord del paese, con questo stesso governo che dice di voler formare un altro partito per riformare un nuovo esecutivo a breve, che chiaramente non verrà riconosciuto dagli oppositori che hanno occupato gli aeroporti. Il re non si sa dove sia, l'esercito per ora resta nelle caserme senza fiatare, non si sa bene chi comandi in questo paese. La situazione almeno qui a Bangkok, viste le forze in campo, è questa. Grazie dunque Luca Vinciguerra, restiamo in qualche modo in Asia, Alessandra. Sì, perché è da lì che è partita l'onda negativa che questa mattina ha colpito i mercati europei. Deborah Rosciani, è così? Sì, buongiorno, in realtà come dire la gettata temporale è un po' più ampia perché le vendite molto intense e pesanti sono cominciate ieri in Europa per poi registrare le stesse prestazioni pesantissime a Wall Street. Ieri il Nasdaq ha perso più dell'8%, il Dow Jones il 7%, replica identica questa mattina in Asia come dicevate, e stamattina l'Europa ci stava riprovando a partire molto male. I cali degli indici del vecchio continente in avvio erano di nuovo intorno ai 2 punti, poi ad un certo punto poco prima delle 11 c'è stato per fortuna un cambio di direzione, almeno adesso l'Europa prova a rimbalzare, anche se il rimbalzo è decisamente poco accentuato rispetto alle enormi perdite di ieri. Londra sta guadagnando 1,5 punti, Francoforte il 2,33, Parigi l'1,24%, Milano sta guadagnando 1,5 punti. Un mercato che non riesce a beneficiare anche delle discrete notizie che sono arrivate oggi: il petrolio a $47 al barile, abbiamo la banca centrale australiana che ha abbassato i tassi di interesse di 1 punto, quindi in qualche maniera forse sollecitando anche la banca centrale europea a fare altrettanto dopo domani, ma ci sono molti dubbi su un taglio di questo tipo. La Banca del Giappone ha adottato una serie di misure per agevolare l'accesso al credito, ma tutto questo ancora non basta a smorzare la tensione sui mercati finanziari. L'ultima cosa che voglio ricordare, ancora in difficoltà il settore finanziario, lo sappiamo bene, ma JP Morgan ha annunciato il taglio di 9.200 posti di lavoro in Washington Mutual, che è la banca commerciale americana che aveva comprato poco fa, ma insomma la ristrutturazione è pesante, è necessaria, forse anche su questo il mercato si è concentrato nelle ultime ore. Grazie Deborah per questi aggiornamenti, poi torneremo a sentirti nel corso di XL perché le giornate di borsa sono piuttosto intense e insomma vogliamo avere un quadro aggiornato più o meno costante. E ora veniamo alla cronaca, sono stati arrestati i presunti responsabili della spettacolare rapina, forse la ricorderete, quella effettuata nella gioielleria Damiani a Milano il 24 febbraio scorso, parliamo del pieno centro del capoluogo lombardo. Si tratta di una banda di 9 persone, tutte italiane, sono esperti in rapine con la tecnica del buco. Famosa banda del buco. Alcuni di loro avrebbero anche legami con Cosa Nostra. Sentiamo i particolari delle indagini che hanno portato al loro arresto da Francesco Messina, capo della squadra mobile di Milano, intervistato da Maria Luisa Pezzali. Si tratta di un'indagine tradizionale, noi abbiamo ricostruito in maniera certosina le fasi antecedenti, quelle ovviamente contemporanee e le fasi successive alla rapina, basandoci anche sul modus operandi peculiare, particolare, cioè sulle modalità con cui questa rapina è stata consumata. Attraverso un buco questi soggetti sono penetrati all'interno della gioielleria e hanno sequestrato temporaneamente i presenti per poi allontanarsi con tutti questi gioielli, svariati milioni di gioielli in euro. Da lì abbiamo svolto le indagini tradizionali e siamo riusciti a ricostruire l'organigramma di questa banda, che poi è composta da soggetti che conoscevamo perfettamente, perché si tratta di soggetti che, ripeto, abbiamo già tratto in arresto negli anni passati proprio a Milano, proprio per rapine dello stesso tipo. Quindi erano vecchie conoscenze? Sì, vecchie conoscenze che hanno fatto un recente salto di qualità, perché devo dire che alcuni di questi soggetti sono pericolosamente vicini all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, a una particolare branca di questa, una particolare parte di questa organizzazione, cioè la parte che fa capo al mandamento di Pagliarelli, alla famiglia insomma rotoliana, di cui è sicuramente esponente di spicco Nicchi, che è un latitante, uno dei latitanti più importanti di Cosa Nostra, in questo momento oggetto di attenzione investigativa da parte delle forze dell'ordine in Sicilia e non solo in Sicilia. E questi soggetti, come abbiamo avuto modo di verificare nel corso delle perquisizioni, perché abbiamo rinvenuto del materiale che attesta questi legami, avevano degli ottimi rapporti con questo soggetto, con questo latitante. E c'è stata anche una rapina questa mattina a Bollate nel Milanese, due persone, un impiegato e un malvivente, sono rimasti feriti appunto durante questa rapina. Gli autori del colpo, due uomini, sono poi stati arrestati dai carabinieri dopo un tentativo di fuga. Uno dei due è stato fermato in una sparatoria con i militari ed è gravissimo. Restiamo a Milano per tutta un'altra storia. La storia della prima della scala. Nei giorni scorsi è tornata la minaccia dello sciopero, poi è arrivato l'accordo. Il 7 dicembre, dunque, domenica, si alzerà il sipario della scala sul Don Carlo di Verdi, del quale stiamo sentendo le note in sottofondo. Ieri, oltre alle sigle confederali, anche il sindacato autonomo FIALS ha siglato l'accordo integrativo con la direzione del teatro. L'apertura della stagione lirica alla Scala si farà regolarmente. Sembra infatti definitivamente scongiurato lo sciopero per il contratto integrativo che era stato indetto per il 7 dicembre. Dopo una giornata di incontri tra il sovrintendente della Scala, Stéphane Lissner, le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, che già avevano aderito all'accordo integrativo del 30 luglio scorso, e la FIALS CISL, il sindacato autonomo di cui fanno parte numerosi orchestrali e una trentina di coristi che non aveva sottoscritto l'accordo perché lo riteneva dannoso per gli artisti, ieri finalmente è arrivata la soluzione. E anche se vanno sciolte le ultime riserve da parte dell'assemblea degli iscritti al sindacato autonomo, sembra ormai certo che il Don Carlo di Verdi andrà in scena il giorno di Sant'Ambrogio. Sandro Malatesta, segretario della FIALS CISL. Nella sostanza vi dico che questa è un'ipotesi d'accordo che, come tutte le ipotesi, va ratificato dall'Assemblea. Bisogna aspettare questa sera, per il rispetto dell'Assemblea stessa. Le minacce di sciopero alla Scala non si contano più e sembrano fare ormai parte integrante del rituale, specie all'apertura della stagione lirica. Ma su questo il segretario della FIALS CISL, Sandro Malatesta, non è d'accordo. Tutti gli anni non è vero che c'è questa cosa qui. Sono 8 anni che noi non rinnoviamo il contratto di lavoro. Perciò questa è solo un'impressione. Non vedo come ci si possa imputare questo tipo di fenomeno, perché non è assolutamente così. È un'impressione sbagliata. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. L'opposizione thailandese, è notizia di poco fa, ha annunciato la fine delle manifestazioni di protesta e del blocco degli aeroporti a partire da domani. L'annuncio è giunto dopo il verdetto di stamattina della Corte Costituzionale, che ha sciolto i tre principali partiti di governo e interdetto dalla politica molti suoi leader, a partire dal premier. Slitta ancora il passaggio di consegne fra l'Italia e CAI, lo ha annunciato il ministro delle attività produttive Claudio Scajola con queste parole. Credo giustamente si sia considerato il periodo delle vacanze natalizie con la maggiore delicatezza per il trasporto aereo, non quello ideale per fare il cambio di guida. Il passaggio della cloche avverrà dopo le vacanze natalizie. Nei prossimi due anni ci saranno 900.000 posti di lavoro a rischio nell'industria manifatturiera e delle costruzioni. Sono i calcoli della CISL sull'effetto che avrà la crisi che sta investendo l'economia globale. Il 5% dell'occupazione industriale è coinvolta in processi di crisi. Barack Obama ha annunciato ieri la sua squadra per la politica estera. Hillary Clinton, come annunciato, sarà il segretario di Stato. Robert Gates, segretario alla difesa sotto Bush, resterà in carica anche in questa amministrazione. Sono stati arrestati i rapinatori che svaligiarono la Damiani Gioielli a Milano. Secondo la polizia avevano contatti con Cosa Nostra e sempre nel milanese. Questa mattina assalto ad un ufficio postale. C'è stata una sparatoria ed uno dei banditi è in coma. The time has come for a new beginning. A new dawn of American leadership to overcome the challenges of the 21st century. Un nuovo inizio. Le parole di Obama le state sentendo nel giorno nel quale ha presentato la sua squadra di politica estera. Hillary Clinton, segretario di Stato, Robert Gates, che resta al suo posto come segretario alla difesa. Ne parleremo fra un attimo, ma prima ancora un aggiornamento di borse. Deborah Rosciani. Sì, le borse stanno andando benino in questo momento. Aspettano positive anche l'apertura di Wall Street, che oggi dovrebbe essere all'insegna del rimbalzo dopo i cali marcatissimi di ieri. Peraltro oggi dagli Stati Uniti aspettiamo alcuni dati economici importanti. Abbiamo le vendite di autoveicoli in novembre, sappiamo in quale crisi stia versando in questo momento proprio il settore delle auto, abbiamo visto anche ieri sera i dati sulle immatricolazioni in Italia, e soprattutto alle 20 la Banca Centrale Americana pubblica il Beige Book, il suo rapporto mensile. In tutto questo, dicevamo, l'Europa aspetta in rimbalzo dopo i cali di ieri. Parigi più 1,39, Francoforte più 2,63, Londra più 1,53, Piazza Affari più 1,81% sull'S&P MIB. È tutto. E forse il Beige Book, grazie Deborah Rosciani, lo aspettano anche dallo staff di Barack Obama, naturalmente, per capire un pochino come sta girando l'economia. Lo staff economico è stato nominato la scorsa settimana, ieri è stato nominato quello degli esteri, lo dicevamo, Hillary Clinton come segretario di Stato, e un uomo che non si muoverà dal Pentagono, Robert Gates, quindi un repubblicano, come segretario alla difesa. Ambasciatore Sergio Romano, buongiorno. Buongiorno. Allora, questa squadra di governo, abbiamo già sentito i nomi. Una cosa che stupisce, per esempio, noi italiani è che il ministro della difesa, Robert Gates, è stato di fatto confermato. Una cosa che in Italia non avverrebbe mai, se insomma uno è di destra e di sinistra, non viene confermato nel governo successivo. In questo caso Gates viene confermato ministro della difesa anche dell'amministrazione di Barack Obama. Come mai? Ma anzitutto vi sono dei precedenti. Clinton, verso la fine del suo mandato, ebbe un segretario alla difesa repubblicano. Queste cose sono accadute negli Stati Uniti con una certa regolarità, e in Europa cominciano ad accadere nel momento in cui Nicolas Sarkozy fa incetta di collaboratori fra i vecchi socialisti. Questo dimostra che quanto più si è forti, tanto più ci si può permettere in qualche modo di prendersi il talento necessario là dove lo si trova. Quindi insomma siamo solo noi italiani che stiamo ancora attenti a certe divisioni politiche? Noi italiani abbiamo ancora un concetto del bipolarismo che assomiglia a quello della guerra civile fredda per certi aspetti. Noi abbiamo adottato un sistema bipolare in cui le due parti hanno un compito soltanto, che è quello di odiarsi reciprocamente, di accusarsi di ogni peccato, di non riconoscersi mai alcun merito. Insomma, questo diventa veramente ossessivo, preoccupante per la stabilità del paese e fondamentalmente sbagliato. Ambasciatore, per tornare alla squadra di Barack Obama e soprattutto alle prospettive di politica estera di questa presidenza americana, volevamo capire da lei, secondo lei, quali potrebbero essere i rapporti non tanto con l'Italia, ma con questo governo italiano. Pensiamo ad esempio alla questione della vicinanza del nostro governo con la Russia. Insomma, come la vede, ambasciatore? Beh, bisognerà naturalmente cercare di capire anzitutto quale politica Barack Obama voglia fare nei confronti della Russia, sulla questione dei rapporti con l'Iran e nella questione palestinese, che sono fondamentalmente i tre punti che maggiormente possono interessarci. Su questo non abbiamo molti elementi. Barack Obama ha detto alcune cose all'inizio della sua campagna elettorale, poi ha corretto, poi ha taciuto, poi è stato piuttosto confuso. Prende la questione palestinese, per esempio, a un certo punto aveva detto che sì, Gerusalemme occorre dividerla, poi però ha fatto un passo indietro perché evidentemente si è accorto che certe cose dette in campagna elettorale potevano nuocerli. Poi adesso prende Hillary Clinton, vale a dire una persona che è stata eletta senatore dello Stato di New York, uno Stato in cui le lobby ebraiche e israeliane sono molto forti, e la Clinton ha sempre dato l'impressione di essere vicina a quelle lobby. Poi assume un capo di gabinetto che è addirittura una doppia cittadinanza, è al tempo stesso americano e israeliano. Cosa farà? Farà quello che aveva promesso di fare all'inizio della campagna elettorale, quando disse che era disposto a parlare con tutti, o no? Oppure addirittura ha scelto Hillary Clinton perché gli permette di fare meglio quella politica innovativa sulla questione palestinese che gli sarebbe difficile fare con un altro segretario di Stato? Dopotutto la Clinton dovrà fare la politica di Obama, non Obama la politica della Clinton. Beh, su questo non ci sono dubbi, però a questo punto la Clinton che dovrà incarnare la politica di Obama, per esempio nei confronti dei cosiddetti stati canaglia, l'Iran, a cui tutti stanno guardando, che tipo di posizione potrebbe assumere? E questo naturalmente è il grande punto interrogativo a cui è molto difficile rispondere in questo momento. Io ho l'impressione che per oggi come oggi Obama abbia un obiettivo, deve in qualche modo riunificare il Partito Democratico. Non dimentichiamo che queste elezioni hanno spaccato il Partito Democratico più di quanto non abbiano spaccato in fondo il Partito Repubblicano. Il Partito Repubblicano era tutto dietro McCain alla fine, ma il Partito Democratico invece in un certo momento era diviso fra lui e la Clinton. Ebbene, adesso Obama ritiene che l'unità del Partito Democratico, soprattutto per un candidato anomalo, un candidato in cui il colore della pelle continua a rappresentare comunque una eccezione, una splendida eccezione, ma è un'eccezione che molti americani considerano ancora non splendida. Ebbene, per tutte queste ragioni Obama ha bisogno di avere un partito unito dietro di sé, e lo fa in questo modo, ricorrendo a uomini del clan Clinton, che è quello ovviamente più potente all'interno del partito. Quindi Obama ha scelto Hillary Clinton per riunificare i democratici o per qualche altra ragione? Credo che l'abbia scelta per unificare i democratici, l'abbia scelta perché abbia ritenuto che i Clinton fuori dalla porta di casa erano più pericolosi che dentro la Casa Bianca. Forse vi ricorderete che a un certo punto ci eravamo tutti chiesti ma che cosa succede se si porta i Clinton dentro la Casa Bianca, rischia di avere un ingombrante ombra di banco seduta continuamente al tavolo della sala da pranzo, che sarebbe il vecchio presidente Clinton. Adesso devo dire che ha fatto la scelta di averli dentro la Casa Bianca, e può essere anche una scelta saggia. Tra l'altro Clinton, parlo di Bill, non di Hillary, in questo momento è stato anche indebolito dal fatto che ha dovuto mettere sul tavolo i nomi dei suoi finanziatori, dei finanziatori della sua fondazione. Insomma, è una scelta di Obama, come tutte le scelte comporta dei rischi, lui li sta correndo. Forse fin troppi di clintoniani, ambasciatore, non solamente nella squadra degli esteri, diciamo così, ma un po' in tutta l'amministrazione che si va delineando, penso per esempio alla squadra economica. Certamente sulla squadra economica devo dire che qualche dubbio anche lì è lecito averlo. I vecchi uomini, anche stimabilissimi, rispettabilissimi come Volcker è stato certamente uno degli uomini più rispettabili della politica americana, ma qualche responsabilità, non fosse che per peccati di omissione in questa gestione fallimentare della politica finanziaria degli Stati Uniti, purtroppo l'hanno avuta, anche obiettivamente l'hanno avuta. Ma questo, ho l'impressione che nessuno sappia esattamente bene che cosa fare, e ho l'impressione che Obama a un certo punto ha detto: beh, quello che mi serve maggiormente in questo momento è la continuità e dell'esperienza. potrei puntare sull'uomo nuovo, ma l'uomo nuovo Dio sa chi è e che cosa farà. La continuità e l'esperienza rappresentano, soprattutto per me, e qui ritorna la faccenda del colore della pelle, soprattutto per me rappresentano una garanzia di consenso in una parte importante della pubblica opinione. Credo che questo sia il senso delle sue scelte. Come dire, come novità basto io. Grazie ambasciatore Sergio Romano per essere stato con noi e buona giornata. Buona giornata. Viene dalla sanità, ma sembra un imprenditore. Quindi abbiamo scadenziato alcuni impegni e già venerdì pomeriggio abbiamo dato appuntamento all'ambasciatore Roma. Non è un'interferenza, ma no, è la diretta del Presidente del Consiglio da Tirana in Albania, dove è in visita di Stato, conferenza stampa congiunta con Berisha, il suo omologo albanese. Ve ne daremo conto nel corso di XL. Adesso parliamo di calcio, Alessandra. Sì, parliamo di calcio. Il portoghese Cristiano Ronaldo, il vincitore del Pallone d'Oro 2008, il premio del periodico francese France Football al miglior calciatore d'Europa. Ronaldo ha preceduto l'argentino del Barcellona, Lionel Messi, e lo spagnolo del Liverpool, Fernando Torres. It's Cristiano Ronaldo, he has got the goal! He's done it! A century of Manchester United goals for Cristiano Ronaldo! Certo, per festeggiare non ha scelto una delle sue solide prodezze, ma un'espulsione per un ingenuo fallo di mano nel derby di Manchester, vinto domenica dal suo United contro il City. Ma di sicuro Cristiano Ronaldo non rinuncerà a stappare una bottiglia di champagne. È lui il 53esimo pallone d'oro, il successore del milanista Kakà, il terzo portoghese dopo la pantera nera Eusebio nel 65 e Luis Figo nel 2000. A 23 anni, grazie a Premier League e Champions vinte da capocannoniere con il Manchester United, Cristiano diventa ora il vero Ronaldo, non più l'ombra del suo declinante alter ego brasiliano. Funambolo e goleador, sogno del Real Madrid e oggetto del desiderio di veline e playmate, Ronaldo è la sintesi tra calcio, fashion e glamour. E allora nessuna sorpresa se il pallone d'oro finisce oggi nella sua bacheca, ennesimo trofeo da spolverare accanto a qualche coppa e decine di cuori infranti. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. L'impoverimento culturale e morale della politica è sotto gli occhi di tutti. Le parole sono del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che le ha pronunciate poco fa da Napoli. Nei prossimi due anni ci saranno 900.000 posti di lavoro a rischio nell'industria manifatturiera e nelle costruzioni. Sono i calcoli della CISL sull'effetto che avrà la crisi che sta investendo l'economia globale. L'impatto del piano del governo, dice Bonanni, sarà modesto. Il passaggio di consegne tra l'Italia e CAI avverrà dopo le vacanze di Natale. Lo ha annunciato il ministro alle attività produttive, Claudio Scajola. Sono stati arrestati i rapinatori che svaligiarono la Damiani Gioielli a Milano. Secondo la polizia avevano addirittura contatti con Cosa Nostra, il capo della squadra mobile di Milano, Francesco Messina. Sì, vecchie conoscenze che hanno fatto un recente salto di qualità, perché devo dire che alcuni di questi soggetti sono pericolosamente vicini all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, a una particolare branca di questa, una particolare parte di questa organizzazione, cioè la parte che fa capo al mandamento di Pagliarelli. E sempre nel milanese, questa mattina assalto ad un ufficio postale, c'è stata una sparatoria ed uno dei banditi è in coma. Barack Obama ha annunciato ieri la sua squadra per la politica estera. Hillary Clinton sarà il segretario di Stato, Robert Gates, segretario alla difesa sotto Bush, resterà in carica anche in questa amministrazione. Molte polemiche si sono alzate ieri per le prese di posizione del Vaticano, ma vediamo di spiegare bene i fatti. La Francia, come presidente di turno dell'Unione Europea, ha presentato all'ONU una richiesta affinché l'Assemblea approvi una dichiarazione per chiedere la depenalizzazione dell'omosessualità nei paesi in cui viene considerata ancora oggi un reato, oppure nei paesi nei quali i gay vengono discriminati in quanto appunto tali. Ieri la presa di posizione del Vaticano, appunto, che si è dichiarato contrario. Monsignor Celestino Migliore, rappresentante della Santa Sede presso le Nazioni Unite a New York, ha detto che il catechismo della Chiesa Cattolica dice che nei confronti delle persone omosessuali si deve evitare ogni marchio di ingiusta discriminazione. Ma qui ha avvertito la questione un'altra. Con una dichiarazione di valore politico si chiede di aggiungere nuove categorie protette dalla discriminazione, senza tener conto che se adottate esse creeranno nuove e implacabili discriminazioni. Queste le parole appunto di Monsignor Celestino Migliore, rappresentante della Santa Sede alle Nazioni Unite. Sentiamo allora com'è la situazione nei paesi arabi dove più forti sono le discriminazioni. Sentiamo un po'. Per milioni di persone nel Medio Oriente, l'ascesa del fondamentalismo islamico ha significato la caduta in un'era di oscurantismo religioso che non ha risparmiato certo gli omosessuali. Esclusi quattro paesi dove è prevista la pena di morte, scegliere la propria inclinazione sessuale è illegale in ben 14 paesi arabi. Scomparsa ogni forma sociale di difesa della categoria, le fustigazioni per cattiva condotta sessuale sono all'ordine del giorno. Nei paesi cosiddetti tolleranti non è che le cose vadano meglio. In Siria e Libano le attive comunità gay sono considerate portatrici di malattia che può essere curata. In Marocco e Tunisia la comunità è colpita dalla doppia H, Hokuma, governo, e Haram, peccato. Non ingannino Egitto e l'Iraq, gli unici dove non ci sono leggi contro l'omosessualità. Al Cairo le retate della polizia di Mubarak non conoscono soste, mentre a Baghdad con le milizie sciite e qaediste in giro, la morte per omosessualità è la regola. Adil Fattah Ali, GR24, Il Sole 24 Ore. E la Francia, sempre come presidente di turno dell'Unione Europea, ha chiesto una riunione urgente dei 27 dopo la richiesta dell'ONU di inviare delle truppe per una missione nella Repubblica Democratica del Congo. Intanto il governatore della provincia del Nord Kivu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, si è dichiarato ieri pronto a negoziare direttamente con il capo dei ribelli, Nkunda. Il diario da Goma di Giampaolo Musumeci. Goma vive come sospesa ormai da più di 4 settimane. L'ombra di Nkunda si allunga minacciosa sulla capitale del Kivu. Non perché ci siano state bellicose dichiarazioni. All'ultimo incontro con l'inviato speciale dell'ONU, Obasanjo, sabato scorso, il chairman, come ama farsi chiamare Nkunda, ha detto che cerca la pace. Ma qui a Goma l'atmosfera è pesante. Se vuoi la pace, prepara la guerra, recita un motto latino. E così, mentre il generale incontrava Obasanjo a Jomba, un piccolo villaggio a est di Rushuru, nel cuore del territorio controllato dai suoi ribelli, nel frattempo si preparava a scatenare un'offensiva contro i Mai Mai a Masisi, a ovest di Goma. E così è stato. Ieri ci sono stati violenti scontri, i ribelli sono arrivati a soli 5 chilometri dalla città difesa dai Mai Mai. Parallelamente, Nkunda ha dovuto spostare truppe dalla frontiera con l'Uganda, già guadagnata in giorni scorsi, per rinforzare la prima linea proprio a Masisi. Nottetempo il generale muove i suoi uomini, i suoi guerriti soldati, con repentini cambi di fronte che disorientano e non lasciano intuire una precisa strategia. Ma che Nkunda guardi a Kinshasa, questo è evidente. Se non militarmente, almeno politicamente, il suo obiettivo è la capitale congolese. Il suo avversario, Kabila, si rifiuta di sedersi al tavolo delle trattative. Ma fonti ben informate lo tratteggiano preoccupato, molto preoccupato, addirittura al punto che avrebbe lasciato la sua abitazione. Joseph Kabila dormirebbe in Parlamento. La paura è quella di un attentato. Da quel punto a Nkunda mancherebbe solo un tappeto rosso per entrare a Kinshasa. Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. Allora, i quotidiani stranieri oggi in edicola, iniziamo dal Paese. Sì, è il Paese che dimostra come sia un po' in crisi, lo dimostrano le parole di Bush che si pente sull'Iraq, come sia un po' in crisi tutto questo, tutta l'idea della guerra in Iraq. E il Paese titola: il congresso spagnolo e i giudici indagano su un patto segreto tra Aznar e Bush. Aznar è stato uno degli alleati più stretti di Bush, insieme anche a Berlusconi e a Blair, naturalmente, ai tempi dell'invasione in Iraq. Secondo questo patto segreto, come lo chiama il Paese, Aznar avrebbe concesso l'uso delle basi spagnole per gli aerei di Bush, e cosa che avrebbe fatto appunto senza chiedere un'autorizzazione al Congresso, che invece era tenuto a chiedere. Aznar dice di non saperne niente. Il commento di El País è: se davvero non sapeva, poverino, perché allora è stato fatto tutto alle sue spalle; se invece sapeva e sta mentendo, allora andrebbe quasi condannato a posteriori comunque per questo suo agire in dispregio delle regole costituzionali. Giulia, si parla parecchio di IVA in Europa. In Italia, nelle ultime ore, soprattutto di un'IVA che viene alzata, viene portata dal 10 al 20%, quella sugli abbonamenti Sky. Poi, insomma, c'è qualche novità anche su questo, vedremo di riuscire a parlarne tra poco. E però se ne discute parecchio, insomma, in particolare in Germania. Normalmente quando si pensa a misure per stimolare l'economia, una di quelle possibili è il taglio dell'IVA. L'IVA esiste in tutti i paesi, anche se naturalmente con modulazioni diverse, o poi come da noi, che magari non c'era sulla TV satellitare, adesso verrà introdotta e siamo tutti così scandalizzati. Però insomma è sicuramente una leva. E però ci sono alcuni paesi, come per esempio la Germania, che è assolutamente nella persona di Angela Merkel, il cancelliere, capo del governo, dice no, non è il modo giusto. Naturalmente l'IVA l'IVA è una delle principali entrate dello Stato, quindi certo ci costerebbero molto meno, o non molto, ma meno alcuni beni, diciamo dal 10 al 20% in meno, però sono un 10-20% di meno in di tasse per il governo, e quindi i 15 ministri delle finanze dell'Eurogruppo non intendono, questa è la notizia in prima pagina sulla FAZ, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, non intendono seguire l'esempio della Gran Bretagna, che invece in questo delirio dove addirittura ha iniziato a parlare di entrare nell'euro, appunto ha ridotto temporaneamente l'imposta, l'IVA locale. Giulia Crivelli, grazie anche per oggi, naturalmente ci sentiamo domani. Alessandra, ci parli di un libro adesso? Sì, L'amore mi perseguita, non è una mia affermazione, no, ma è un attimo di terrore. È il titolo dell'ultimo libro di Federica Bosco, che è considerata un po' una delle reginette della chick lit all'italiana, chick lit, la letteratura per pollastrelle, insomma il filone di Bridget Jones per intenderci. L'amore mi perseguita, pubblicato sempre da Newton & Compton, è un po' la terza puntata che vede ancora una volta protagonista questa trentenne Monica, alle prese sempre con disastri amorosi di tutti i tipi. Come era già avvenuta nella prima puntata, nel primo libro di questa trilogia, Monica stavolta si trova a New York e dovrà affrontare anche in questo caso delle belle disavventure. Allora sentiamo perché Federica Bosco ha deciso di riproporci ancora una volta il personaggio di Monica nell'intervista che abbiamo realizzato. Dunque, intanto perché anche nel finale dell'Amore non fa per me era comunque aperto e rimaneva una curiosità. E poi sai che il 3 è il numero perfetto, perciò avevo questa idea all'inizio che sarebbe stato carino farne una trilogia. E in effetti in questo terzo si concludono diversi passaggi fondamentali. Quali sono le esperienze che vive Monica, le principali esperienze che vive in questa puntata della sua vita? Dunque, intanto c'è un ritorno ancora a New York che io non avevo descritto come si doveva perché nel primo capitolo non c'era mai stata. Lei ritorna per questa convalescenza amorosa pazzesca, perché è finita la storia con il grande amore della sua vita, poi lei è stata fra l'altro risedotta e riabbandonata dall'altro fidanzato, quindi una doppia delusione amorosa, con un barlume di lavoro a Vanity Fair che andrà subito a schifo, questo si può dire, e poi succederanno le cose veramente importanti, veramente fondamentali, e perciò lei si troverà di punto in bianco a decidere di cambiare vita senza avere poi una reale scelta, cioè la vita che viene a chiamare. E a quel punto si cresce. Possiamo dire però che in questa terza puntata le cose le andranno un po' meglio, magari? Sì, io direi di sì. Beh, Alessandra, è con questi libri che si fanno i soldi. Beh, anche con questi, insomma, sono libri che vendono moltissimo. Considera che un libro in Italia in media vende solo 4.700 copie. Questi sono libri che vendono 30.000-40.000 copie, quindi entrano in classifica, quindi libri di tutto rispetto. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Notizia di poco fa, perquisizioni, sequestri alla procura di Catanzaro, avvisi di garanzia per i magistrati coinvolti nel caso De Magistris. Nei prossimi due anni ci saranno 900.000 posti di lavoro a rischio nelle industrie manifatturiere e delle costruzioni. Sono i calcoli della CISL sull'effetto che avrà la crisi che sta investendo l'economia globale. L'impatto del piano del governo, ha detto Bonanni, sarà modesto. Il passaggio di consegne tra l'Italia e Caia avverrà dopo le vacanze di Natale, lo ha annunciato il ministro alle attività produttive, Claudio Scajola. Barack Obama ha annunciato ieri la sua squadra per la politica estera. Hillary Clinton, come previsto, sarà il segretario di Stato. Robert Gates, segretario alla difesa già sotto Bush, resterà in carica anche in questa amministrazione. Ma quali saranno i rapporti con il nostro governo? Ecco cosa ci ha detto poco fa in XL l'ambasciatore Sergio Romano. Bisognerà naturalmente cercare di capire anzitutto quale politica Barack Obama voglia fare nei confronti della Russia, sulla questione dei rapporti con l'Iran e nella questione palestinese, che sono fondamentalmente i tre punti che maggiormente possono interessarci. Su questo non abbiamo molti elementi. L'opposizione thailandese ha annunciato oggi la fine delle manifestazioni di protesta e del blocco dei due aeroporti di Bangkok a partire da domani. L'annuncio è giunto dopo il verdetto di stamattina della Corte Costituzionale, che ha sciolto i tre principali partiti di governo, interdetto dalla politica molti suoi leader a partire dal Premier. Sono stati arrestati i rapinatori che svaligiarono la Damiani Gioielli a Milano. Secondo la polizia avevano contatti con Cosa Nostra. E sempre nel milanese questa mattina assalto ad un ufficio postale. C'è stata una sparatoria ed uno dei banditi è in coma. L'impoverimento culturale e morale della politica è sotto gli occhi di tutti. Si fa fatica a reagire, lo dice il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a Napoli. In India si continua ad indagare sugli attentati della settimana scorsa a Mumbai. Più volte abbiamo detto della pista che secondo le autorità indiane porta al Pakistan, ma non si trascura nemmeno la possibilità di un'azione ispirata ad Al-Qaeda e condotta da un gruppo estremista come il Lashkar-e-Taiban, che agisce nel Kashmir. Tutti i mandanti sono possibili, ma la religione non c'entra, dice Asghar Ali Engineer, direttore del Centro di Studi Islamici di Mumbai. Not at all religious. These are all political. No, non c'è niente di religioso. Qui si tratta di politica. Il Lashkar-e-Taiba appartiene all'estrema ala destra del Partito Islamico, ma quello che fa non ha alcuna motivazione religiosa. La religione, al contrario, insegna a non uccidere. Questa è una questione politica. L'animosità tra India e Pakistan non è tra gli indiani e i pakistani. Quelli che stanno nell'esercito pakistano o nei servizi segreti pakistani magari sono dei fanatici religiosi, ma agiscono per motivazioni politiche. Pensano alle elezioni in India dell'anno prossimo? Non ci sono prove dirette, ma il tempismo indica che potrebbe essere così. Ma cosa vogliono? Sono speculazioni, ma se ne potrebbe dedurre che si punta a far vincere il partito di destra induista BJP. E se vince il BJP, le probabilità che si verifichi uno scontro tra India e Pakistan aumentano. E l'esercito pakistano ne sarebbe soddisfatto e ne avrebbe un ritorno anche nella politica pakistana. Come vivono i musulmani in India? Paragonati al resto della popolazione, sono meno preparati, studiano meno, sono più poveri. Negli anni le loro condizioni sono migliorate leggermente, ma ora la globalizzazione e di conseguenza la crisi economica mondiale e la recessione hanno aumentato il numero dei poveri. Come mai l'India non è più la pacifica culla delle religioni? Quando vennero gli inglesi, cominciarono a dividerci e poi divisero il nostro paese anche ai tempi dell'indipendenza. E queste divisioni le abbiamo ereditate. Ora le forze politiche di destra di India e Pakistan prosperano mettendoci gli uni contro gli altri. Le cose potrebbero cambiare solo se principi e valori diventassero le basi della politica. E questo era il direttore del Centro di Studi Islamici di Mumbai, intervistato dalla nostra Laura Bettini. Vi avevamo annunciato novità sulla questione Sky e la novità è una dichiarazione del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, durante la conferenza stampa della quale vi abbiamo fatto sentire un piccolo pezzo con Berisha dall'Albania. Dice, lo spot di Sky non l'ho visto, ma se la sinistra insiste perché si cambi questa norma, la prendo in parola. Vediamo se la sinistra per una volta tanto e finalmente sarà coerente con se stessa o se invece perderà la faccia di fronte agli italiani. Spero che la sinistra insista e sia coerente con se stessa. Due classi della scuola media di Castelleone nel Cremonese sono state evacuate per il timore di crolli e una quarantina di studenti sono stati trasferiti. C'era una crepa sul soffitto al primo piano e una fissura sulla parete laterale di un'aula al piano terra. E nel nostro viaggio nella sicurezza delle scuole, oggi andiamo nel Cosentino, a Torano Castello. Le scuole non sono tra quelle dell'elenco segnalato da Cittadinanza Attiva per problemi, ma la situazione qui è tutt'altro che rosea, sentite. Ho un istituto che è stato dichiarato pericolante, quindi i bambini sono in un palazzo di un privato che non è nemmeno a norma. Poi c'è un'altra scuola che è stata segnalata pericolosa. Il problema potrebbe essere è di struttura. E dice poco? No. Si affida al fato Angelo Velio Sorcale. Questi, per lui, dirigente delle scuole di Torano Castello, nel Cosentino, sono giorni difficili dove il problema più semplice da risolvere è la mancanza di scivoli per far entrare ad esempio una mamma disabile rappresentante di classe. In questo comune, come in altri della zona, agli edifici mancano infatti i certificati di agibilità perché, ammette, non li possono dare. Di impianti non a norma e materiali tufacei inadatti per le scuole della frazione Sartano parla in una denuncia il Movimento dei Diritti Civili. Il preside ha di nuovo sollecitato interventi del comune, ma ora sono i 99 alunni della scuola primaria centrale a preoccupare di più. Fanno infatti lezione in un palazzo privato inadatto dopo che 4 anni fa l'istituto è stato chiuso perché pericolante. Per accedere a quella scuola c'è una rampa di scale, di fronte alla scuola a distanza di 3-4 metri c'è un muro di cemento, ci sono poche possibilità di fuga. Ora, dopo 4 anni, il comune ha annunciato l'inizio dei lavori. Raffaella Calandra, GR24, Il Sole 24 Ore. La notizia che vi davamo nei titoli: molte perquisizioni, sequestri e notifiche di avvisi di garanzia sono in corso da questa mattina a Catanzaro su ordine della Procura di Repubblica, della Repubblica di Salerno, nell'ambito delle indagini in corso da più di un anno sull'inchiesta nota come Caso De Magistris. L'inchiesta, ve lo ricordiamo, parte dalla denuncia dell'attuale giudice del riesame di Napoli, trasferito d'ufficio dal CSM dal suo posto di PM a Catanzaro, e quindi Luigi De Magistris, dopo che le sue inchieste avevano scosso il mondo politico e giudiziario. Deborah Rosciani, gli aggiornamenti sulle borse. Allora, abbiamo in questo momento ancora un quadro di rimbalzo, ma già stanno rallentando le borse europee. Si preannuncia anche un tentativo di rimbalzo in avvio di seduta a Wall Street. Vi segnalo un paio di casi. Nel premercato è in difficoltà Goldman Sachs, sta perdendo il 16%. Secondo il Wall Street Journal, chiuderà il quarto trimestre con una perdita di 2 miliardi di dollari. Male anche General Electric, sta perdendo l'8%, dovrà presentare i dettagli sul piano di organizzazione della divisione finanziaria. L'Europa rapidamente: Parigi più 0,8%, Francoforte più 1,6%, Londra più 0,69%, Milano più 1,19%. Sull'S&P MIB è tutto. Grazie Deborah per questi aggiornamenti. Alessandra, adesso parliamo di cultura italiana celebrata in altri paesi. Sì, parliamo di Cesare Pavese. Quest'anno è il centenario dalla nascita. In questi giorni l'opera di Cesare Pavese viene portata alla Fiera del Libro di Guadalajara, in Messico, dove l'Italia è paese ospite d'onore. Ma c'è anche un altro paese che sta celebrando, un altro paese straniero che sta celebrando il nostro autore piemontese. Questa è la Francia. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. L'uomo solo che è stato in prigione ritorna in prigione ogni volta che morde in un pezzo. I francesi non lo hanno dimenticato. Le Figaro la settimana scorsa lo definiva un autore mitico, immerso in un'aura di tragico romanticismo, una sorta di Fitzgerald italiano. 100 anni fa nasceva Cesare Pavese. Parigi lo ricorda oggi con una giornata di studi all'Istituto Italiano di Cultura e in questi giorni con una mostra dedicata a lui, ospitata nel municipio del 6° arrondissement. 3 i percorsi. Il rapporto tra Pavese, i luoghi dei suoi romanzi e poemi, tra le colline di Langa e i portici di Torino. La prima capitale d'Italia, vista e letta attraverso le immagini degli artisti che gli furono contemporanei. Infine il cinema di Pavese, ovvero i film che alla sua opera sono ispirati, i suoi soggetti e quelli che l'autore di La Luna e i Falò vedeva nelle sale di allora. Per la prima volta in Francia, intanto, appare nella prestigiosa collezione IV di Gallimard il volume delle opere complete, solo quelle apparse in vita, con l'eccezione però del Mestiere di vivere, pubblicato integralmente per la prima volta in francese. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. 900.000 posti di lavoro a rischio, 180.000 già in cassa integrazione, sono i dati della CISL sulla crisi dell'industria. Si decolla, ma solo fra un mese la nuova Alitalia targata CAI partirà dopo Natale. Perquisizioni, sequestri e notifiche di avvisi di garanzia sono in corso a Catanzaro, nella procura di Catanzaro, sul caso De Magistris. L'opposizione thailandese ha annunciato oggi la fine delle manifestazioni di proteste e del blocco dei 2 aeroporti di Bangkok a partire da domani. Erano i 9 ed erano legati alla mafia, arrestati i rapinatori della Damiani, gioielli a Milano. L'impoverimento culturale e morale della politica è sotto gli occhi di tutti, lo ha detto il presidente della Repubblica Napolitano oggi a Napoli. Il più forte del mondo è un portoghese, pallone d'oro a Cristiano Ronaldo, dietro di lui Messi e Fernando Torres. È tutto per questa edizione, curata e condotta da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia. In regia Fabio Cantadore, al coordinamento Daniele Biacchessi. Se volete potete scriverci extralarge@radio24.it e riascoltarci su www.radio24.it. Il prossimo giornale radio alle 15, noi ci risentiamo domani alle 13. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.